Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Sanzioni a chi sconsiglia i vaccini. Si può arrivare fino alla radiazione dall'albo. L'annuncio della Federazione degli Ordini dei Medici. Alcuni procedimenti già in corso. Turchia, la morsa della repressione dopo il tentato golpe di vieto d'espatrio per i professori universitari. Chiuse radio e televisioni sospettate di essere vicine a Gulen. Giro di fatture false in manette l'immobiliarista Stefano Ricucci. Fu protagonista delle tentate scalate ad Anton Veneta RCS. 10 gli indagati nell'inchiesta. 2 arresti per gli attentati alle chiese nel Fermano. Si tratterebbe di ultra della squadra locale, forse con simpatie anarchiche. La rabbia è legittima, ma non degeneri in odio. Lo dice il presidente francese Hollande. Ancora 15 persone tra la vita e la morte per l'attentato di Nizza, prorogato lo stato di emergenza. Immigrazione, continua la pressione al valico di Tarvisio dall'Austria. Nuova stretta sui controlli. In Friuli i centri di accoglienza sono pieni. Nel programma per l'ambiente della nuova giunta di Torino c'è anche la promozione della dieta vegana e vegetariana. Ne parleremo con l'assessore appena insediato. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp. C'è anche il nostro canale Telegram, telegram.me/effettogiorno, per avere le anticipazioni sulla trasmissione. In apertura dunque parliamo di vaccini con la Federazione degli Ordini dei Medici, che ha deciso di varare un protocollo, per così dire, molto duro. Siamo in linea con Luigi Conte, che è il segretario generale della federazione. Buongiorno Conte, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, che cosa prevedete? Allora, noi vogliamo richiamare l'attenzione di tutte le istituzioni, sia politiche che sanitarie del nostro paese, su una deriva molto preoccupante, che è la riduzione del ricorso alle vaccinazioni, che sono state una delle più grandi conquiste dell'umanità in questi anni. Questa preoccupazione praticamente viene espressa da una serie di regole che noi proponiamo alle istituzioni, tra cui anche la magistratura, a cui chiediamo di avere una migliore e maggiore attenzione verso la scientificità di certe posizioni che loro ritengono di dover difendere. Sì, in questo caso Conte, lei fa riferimento, per esempio, lo abbiamo raccontato, all'inchiesta che fu aperta dalla Procura di Trani sulla base dei collegamenti presunti tra autismo e vaccini, presunti, anzi in realtà falsi, perché come sappiamo tutto nacque da una truffa nata in Gran Bretagna da un medico, poi radiato dall'ordine, che si chiamava Wakefield. Per quanto riguarda invece i vostri, gli appartenenti all'ordine, gli iscritti all'albo, si può arrivare alla radiazione? Si può arrivare, noi abbiamo 4 gradi di sanzioni che partono dall'avvertimento alla censura, alla sospensione fino alla radiazione. È chiaro che avremo una valutazione accurata di quelle che sono le mancanze deontologiche inerenti il fatto che ogni medico ha l'obbligo di non sottrarre i propri pazienti a cure sperimentate e documentate. Conte, da quel che ho capito avete già dei procedimenti in atto da questo punto di vista? Ce n'è uno sicuramente che ha finito la fase istruttoria presso l'Ordine di Firenze e che probabilmente sarà celebrato nel mese di settembre, e che riguarda proprio un collega tra i maggiori sostenitori del rapporto autismo-vaccinazione. Chi è? Il nome è il dottor Montinari, che è un colonnello medico della polizia. Allora, io la ringrazio. Grazie a Luigi Conte, segretario generale della Federazione dell'Ordine dei Medici, per questo aggiornamento. Noi passiamo alle altre notizie. Andiamo innanzitutto in Turchia, dove con Marco Barbonaglia facciamo il punto di giornata da Istanbul. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Qui stiamo tutti attendendo la decisione annunciata ieri da Erdogan, che dovrebbe uscire da questa riunione del Consiglio di Sicurezza Nazionale, del quale fanno parte lo stesso Erdogan, naturalmente il capo di Stato Maggiore Hulusi Akar e il primo ministro Binali Yildirim, oltre al capo dell'intelligence Hakan Fidan e al vice primo ministro, il ministro della difesa dell'interno e degli esteri. Da questo meeting dovrebbe arrivare una decisione molto importante, come dicevamo, annunciata da Erdogan, che però non ha detto di più. Ora sappiamo che il vice primo ministro Nurettin Canikli ha detto che proclamare la legge marziale o decisioni di questo tipo sono fuori questione, quindi non dovrebbe essere qualcosa di questo tipo, ma attendiamo. Comunque sappiamo dalle notizie che filtrano che il governo sta anche pianificando di stabilire una corte speciale per i golpisti e di costruire delle prigioni speciali dove rinchiudere il gruppo di militari golpisti, parliamo naturalmente delle elementi o presunte tali. Questo nel giorno in cui anche l'aiutante del capo di Stato Maggiore, sempre del generale Hulusi Akar, il colonnello Levent Türkan, avrebbe ammesso di far parte del gruppo dei golpisti e soprattutto di far parte dell'organizzazione di Fethullah Gülen, raccontando anche un po' la sua storia, che in sintesi è la storia di un bambino povero, di una famiglia che viene da una famiglia povera, aiutato da Gülen, dalle scuole di Gülen, a fare questa carriera militare e anche fornendogli, per dire, le risposte alle domande durante un esame, e fino a farlo diventare un militare, sempre più a infiltrarlo, diciamo, ai vertici, per poter contare sulla sua alleanza. Naturalmente il condizionale è d'obbligo in questo momento, perché non possiamo avere la certezza di tutto. Marco, nel frattempo la repressione prosegue in maniera molto dura, no? Dunque, nel frattempo, oggi i dati dell'Hürriyet sono di circa, principale quotidiano laico della Turchia, sono di circa 50.000 civili tra arrestati, sospesi e licenziati. Ieri è stata la volta, come è stato sottolineato un po' da tutti, degli insegnanti, dopo militari, polizia, governatori. L'obiettivo, diciamo, di ripulire da tutti gli elementi gülenisti è un obiettivo dichiarato a qualsiasi livello, come stiamo vedendo, degli insegnanti. Perché? Perché Gülen, appunto, ha la sua forza, proprio vediamo anche dal racconto che ha fatto questo colonnello, nelle scuole, quindi per questo anche gli insegnanti, oltre a militari, poliziotti, eccetera. Oltre alla chiusura di una serie di radio e TV. Io ti ringrazio intanto, grazie a Marco Barbonaglia in diretta da Istanbul per questi aggiornamenti. Mentre attendiamo le dichiarazioni di Erdogan di oggi, sentiamo il commento di Ugo Tramballi del Sole 24 Ore. Prima che lo si voglia noi, è ormai molto probabile che sia la Turchia di oggi a non voler più entrare in Europa. Per il suo paese sempre più normalizzato, epurato, islamizzato e sempre più simile alla sublime porta dei sultani di un tempo, che al paese moderno che sembrava fiorire, Erdogan ha piani più ambiziosi. A cavallo fra due continenti il suo nazionalismo religioso punta a un ruolo da protagonista. I segnali erano evidenti da tempo, il golpe fallito e le lunghe liste di proscrizione che sono seguite hanno accelerato un processo di autoritarismo che appanna progressivamente ciò che rimane della democrazia. Non c'è settore delle forze armate, della polizia e della società civile che non sia vittima delle purghe di Erdogan. Giornalisti, insegnanti, medici, dipendenti pubblici, imam delle moschee che fino ad ora non erano controllate dai fratelli musulmani del partito del presidente. Un piano di epurazione così vasto non poteva essere preparato in poche ore. È molto probabile che le liste fossero pronte da tempo. Il presidente aspettava solo il momento propizio che il golpe dei suoi avversari gli ha offerto. Così dunque l'analisi di Ugo Tramballi. Il sito d'inchiesta Wikileaks nel frattempo ha pubblicato quasi 300.000 email del partito di governo turco, l'AKP, inviate prima del colpo di Stato fallito nel paese, questo per un'azione di protesta sostanzialmente contro la repressione. Wikileaks è stato oscurato in Turchia, come tra l'altro ampiamente prevedibile. Veniamo alla cronaca italiana con gli arresti per le bombe alle chiese nel Fermano. Erano 4 ordigni, appunto, che sono stati fatti esplodere negli ultimi mesi, come abbiamo raccontato. Ci sono stati 2 arresti. Siamo in linea con Fabio Castori, giornalista del Resto del Carlino. Fabio, buongiorno e grazie per essere venuto ai nostri microfoni. Buongiorno a voi. Allora, 2 arresti, di chi si tratta? Si tratta di 2 fermani, un 44enne Martino Paniconi, disoccupato, e Marco Bordoni, 30 anni, operatore ecologico. Il teorico del gruppo è Paniconi, che viene inserito nel mondo degli anarchici. Però vorrei fare una precisazione: le bombe sono 5. Sì, sono cinque, te ne è scoperta una, sì, solo te ne è scoperta successivamente. Una in, diciamo, in questi giorni, ed è la prima bomba fatta esplodere alla chiesa Pio X di Porto Sant'Elpidio. Allora, abbiamo letto Fabio, che queste due persone sarebbero collegate anche col mondo degli ultras della Fermana. È così? E ci sono collegamenti con Amedeo Mancini, l'uomo che ha picchiato il ucciso? Sì, certo. Il procuratore ha escluso categoricamente collegamenti con Amedeo Mancini, cioè proprio con forza ha respinto questo collegamento, mentre ha confermato il fatto che i due frequentavano lo stadio e la curva dei tifosi della Fermana. E non si sa esattamente le motivazioni, semplicemente si sono dati una motivazione anarchica, sì, per metterle bombe. La motivazione era, cioè, testualmente cito le parole del procuratore Seccia, odio e disprezzo verso le istituzioni, in questo caso istituzioni religiose viste come potere e denaro, ma Seccia fa anche un accenno alle istituzioni di Stato e agli inquirenti, una cosa su cui credo stiano ancora indagando. Ti ringrazio, grazie a Fabio Castori, giornalista del Resto del Carlino, per essere stato con noi, per averci dato questi aggiornamenti. Lo abbiamo strappato tra l'altro proprio alla procura, dove si trova in queste ore per raccogliere notizie, altre inchieste, altri arresti di tutt'altro tipo, quello di Amedeo Ricucci. Un giro di fatture false da 1 milione di euro utilizzato per ottenere liquidità finanziaria. E questa è l'ipotesi di reato che ha portato in carcere questa mattina Stefano Ricucci. L'immobiliarista romano, che in passato tentò di scalare il Corriere della Sera, è stato arrestato dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Roma. In manette è finito anche Mirko Coppola, un imprenditore del Frusinate. L'indagine scaturisce da un più ampio contesto investigativo relativo al fallimento di una delle società del gruppo Magiste, riconducibile a Ricucci. In particolare, gli inquirenti hanno posto l'attenzione sull'acquisto, effettuato da un commercialista di Milano, di alcune posizioni creditorie vantate da società apparentemente terze nei confronti della società fallita, poi rivendute nuovamente a Stefano Ricucci. Arrestato anche un magistrato del Consiglio di Stato, nonché componente della Commissione Tributaria Regionale, Nicola Russo, fra i 10 indagati dell'inchiesta. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Oh, fosse mai all'ascolto, ci scusiamo con il collega giornalista della RAI, pluripremiato, inviato, bravissimo, Amedeo Ricucci. In realtà era Stefano Ricucci l'arrestato, naturalmente, però insomma poi certi nomi girano in testa. Il TAR della Lombardia ha sospeso in via cautelare gli aumenti delle bollette di luce e gas scattati lo scorso 1 luglio. I giudici hanno accolto il ricorso del Codacons presentato a seguito delle speculazioni dei grossisti sul mercato del dispacciamento. Il procedimento è stato rinviato nel merito alla Camera di Consiglio, fissata per il prossimo 15 settembre. Nel frattempo, appunto, gli aumenti di bollette di luce e gas sono sospesi. E veniamo invece alle cronache dal terrorismo e dalla Francia soprattutto, dove Hollande decide il prolungamento dello stato di emergenza e annuncia nuove regole per rafforzare la sicurezza e le libertà entro 6 mesi. La rabbia è legittima, ma nulla ci farà cedere davanti al terrorismo, le cronache di oggi. Poteri speciali ai prefetti, che hanno la possibilità di dichiarare il coprifuoco, di interrompere la libera circolazione, di impedire qualsiasi forma di manifestazione pubblica e di chiudere luoghi come le sale da concerto e i bar. Sono solo alcune delle misure previste dallo stato di emergenza attualmente vigente in Francia e per il quale l'Assemblea nazionale ha votato nelle prime ore di oggi l'estensione fino a gennaio 2017. Una misura straordinaria dichiarata su tutto il territorio francese all'indomani degli attentati di Parigi di novembre scorso, già estesa oltre la sua naturale scadenza fino al 26 luglio, per includere, per motivi di sicurezza, gli europei di calcio e il Tour de France. Dopo i fatti di Nizza, però, lo stato di emergenza, che consente anche il controllo dei mezzi di informazione e permette alle forze dell'ordine perquisizioni a domicilio di giorno e di notte, verrà prolungato per altri 6 mesi, se la votazione dei deputati francesi verrà confermata dai colleghi del Senato, dove oggi è prevista la discussione del disegno di legge. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi inizieremo, come sempre, il nostro giro per l'Italia. E inizieremo continuando a parlare di migranti e della gestione dei migranti, dei profughi, dei richiedenti asilo. Nella fattispecie oggi abbiamo fatto tanti giri nelle scorse settimane, oggi andremo a Tarvisio, che è l'altro confine austriaco. Tanto abbiamo parlato del Brennero, poco abbiamo parlato di quello che succede a Tarvisio. Ebbene, la pressione prosegue. l'Austria annuncia maggiori controlli. Nel frattempo da Tarvisio entra la gente che viene rimandata indietro dalla Germania, dall'Austria, e poi entra nel nostro paese. E poi andremo anche a Torino, dove ha fatto un po' discutere questa scelta della nuova giunta guidata da Chiara Appendino di inserire nel programma la promozione della dieta vegetariana e vegana. Ne parleremo con l'assessore a tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato della possibile radiazione per i medici che sconsigliano i vaccini, abbiamo parlato della Turchia, abbiamo parlato dell'arresto di Ricucci e degli arresti per gli attentati alle chiese nel Fermano, abbiamo parlato anche di terrorismo in Francia. E adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia, come abbiamo fatto da lunedì anche oggi, e lo faremo anche per fino alla fine della settimana e anche la settimana successiva. In linea con quello che sta facendo Radio 24, ci occupiamo di femminicidio. Nel 2015 128 donne sono state uccise dal marito, dal compagno, dall'ex marito, dall'ex compagno, ma tutto inizia prima, in quelle migliaia di casi di maltrattamenti dei quali l'omicidio e il femminicidio è solo la punta dell'iceberg. Ed è per questo che ogni giorno in queste due settimane che Radio 24 dedica al tema, con appuntamenti nelle trasmissioni e nei GR, qua d'Effetto Giorno abbiamo deciso di farvi un elenco quotidiano in pieno spirito con la trasmissione di queste storie che emergono dai giornali locali e che spesso non arrivano sulla cronaca nazionale. E ricordate che quelle che arrivano sui giornali locali ci arrivano solamente perché ci sono state delle denunce. Ci sono migliaia e migliaia di storie di questo genere che non escono fuori. Migliaia di donne che ogni giorno subiscono violenza, ogni giorno. Un elenco che non vi vorremmo fare, ma che siamo costretti a fare. Radio 24, dalla parte delle donne. Ad Ancona, sputi, minacce e soprattutto botte. Il protagonista di questa storia è un irreprensibile impiegato di Banca Italiana, così riferisce la polizia, di 40 anni, la vittima è una donna di 37 anni, sua moglie. Ha resistito, raccontano sempre i poliziotti che sono intervenuti, per anni, soprattutto pensando al bene dei figli. E quante volte avviene questo? Poi il mese scorso non ce l'ha fatta più, ha capito che il rapporto era malato e alla fine l'ha denunciato. A Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, questa volta è avvenuto tutto in piazza. Il protagonista è un cittadino romeno di 50 anni, passeggiava con la moglie e la figlia, aveva bevuto troppo e ha iniziato ad insultarla per strada, per poi prenderla a calci e pugni, davanti a tutti e davanti alla figlia. In Calabria, a Lamezia Terme, dove i maltrattamenti e le violenze sono andati avanti per almeno 3 anni, è stato fermato un uomo di 36 anni, italiano, ma poi quel che rimane è solamente e solamente una misura restrittiva, ossia il divieto di avvicinamento. Per quanto riguarda lei, è stata aggredita anche dopo la separazione e uno dei colpi subiti le ha provocato una lesione grave e permanente all'udito. Queste le storie dunque che abbiamo raccolto oggi. Tutto quanto il viaggio che stiamo facendo lo trovate sul sito www.radio24.it e torniamo su un altro tema che stiamo toccando spesso in questo periodo, che è quello dell'immigrazione e soprattutto di come viene gestita sul territorio, come vengono gestiti sul territorio gli arrivi di migranti, profughi e richiedenti asilo. Abbiamo denunciato spesso in queste settimane che ci sono molte cose che non funzionano. Siamo andati per esempio nel veneziano a Cona, alle spalle di Chioggia. 700 persone sono accatastate in una ex base militare dell'esercito in una frazione di 190 abitanti. Siamo stati a Como. Alla sera c'è sempre un arrivo di un 80-90 persone perché vengono respinte dalla Svizzera oppure perché stanno cercando di passare il confine. E siamo stati a Roma. Ci sono delle tende, delle igloo dove possono dormire e riposare, a volte queste non bastano e quindi sono appoggiati su dei cartoni o dei materassi di fortuna. E siamo stati anche a Milano e non solo. Oggi andiamo in Friuli Venezia Giulia, a Tarvisio, confine con l'Austria. Olivo Comelli, segretario regionale del SAP Friuli Venezia Giulia, buongiorno e benvenuto. Buongiorno anche a tutti i radioascoltatori. Allora, sappiamo che nelle settimane scorse c'è stato un rafforzamento, sono arrivati più uomini a Tarvisio e al confine, ma l'impressione è che si sia tutt'altro che fuori dall'emergenza. Sì, siamo proprio all'esatto contrario. In questi mesi l'Austria aveva minacciato di sospendere Schengen con l'Italia e di creare dei centri di identificazione al confine, anche qua al confine austriaco, sì, al confine con Tarvisio, ma oggi la situazione è l'esatto opposto, la parte lesa è l'Italia, perché da inizio anno a Tarvisio sono stati rintracciati più di 5.000 clandestini, perché ricordiamolo, per la legge italiana la clandestinità è ancora un reato. 5.000 clandestini che 5.000 immigrati o magari sono richiedenti asilo, prospettano di richiedere asilo, questo non lo sappiamo, però aspetti, la fermo su questo. Quello che voglio capire è questo: questi arrivano da Germania e Austria fondamentalmente, il flusso contrario per così dire. Sì, ecco, perfetto, questi qua sono all'interno della rotta balcanica e quando la Germania ha chiuso i cordoni della borsa, perché accoglie solo i siriani e tutti gli altri migranti che stavano nella zona balcanica, adesso stanno cercando di trovare riparo, diciamo, nel paese più accogliente, che è l'Italia. Ricordiamo che noi abbiamo tre istituti: la protezione internazionale, la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria, a differenza degli altri stati comunitari c'è solo la protezione internazionale. Senta una cosa, Comelli, mi è sembrato di capire che anche la situazione nei centri di accoglienza friulani inizi ad essere problematica. Certo, l'altra settimana ci sono stati dei disordini all'interno dell'ex caserma Cavarzerani fra etnie diverse, cioè là sono accolti afghani e pakistani, ma oltre al problema dell'etnia c'è anche un problema di convivenza, perché quella struttura è stata creata per accogliere 350 ospiti, adesso ce ne sono 800, ma sono stati anche 1.000. Allora vede, nel mese di luglio sono stati trasferiti in altre regioni d'Italia 200-250 profughi, ma da Tarvisio nel mese di luglio sono stati rintracciati 450, e parlo, i numeri sono parziali, perché oggi le forze di polizia operano solo fanno i controlli solo sui convogli ferroviari, perché siccome il rintraccio è di media dai 25 ai 30 al giorno, quando vengono rintracciati questi soggetti l'apparato si ferma, perché tutti i colleghi sono impegnati a fare tutta l'attività che ne consegue dopo lo rintraccio, attività amministrativa. E quindi non c'è possibilità di controllo sui camion e sulle auto, questo mi stai dicendo? Certo, quello che avevamo proposto noi era di creare un centro di identificazione a Tarvisio proprio, con una struttura che non dipendesse dalla polizia di frontiera, così il personale oggi impiegato nei controlli avrebbe, una volta rintracciati i clandestini, li avrebbe portati in sto centro, lì devono essere fatte tutte le operazioni conseguenti al rintraccio, fotosegnalamento, rilevamento delle impronte, tutte le interviste, l'attività di polizia giudiziaria, perché ricordiamo ancora un reato in Italia, la clandestinità. Sì. E questi colleghi qua continuavano a fare il loro lavoro sulle strade con le pattuglie che trovavano. Che oggi questo purtroppo non ha avuto. Non si può più fare. Va bene, io la ringrazio. Grazie a Olivo Comelli, segretario regionale del SAP Friuli Venezia Giulia. Agli ascoltatori che scrivono al 349-238-6666, ma il reato di clandestinità non era stato abolito? No, non è stato abolito. Come dire, se ne è parlato molto negli ultimi mesi, se ne è parlato parecchio, ma il reato di clandestinità non è ancora stato abolito. Veniamo ad un altro argomento, il prossimo punto sulla mappa lo mettiamo a Cortona e siamo in provincia di Arezzo, dove nel centro di procreazione medicalmente assistita è stata eseguita per la prima volta in Italia la diagnosi genetica preimpianto. Abbiamo in linea con noi l'assessore alla sanità e alla salute della regione toscana, Stefania Saccardi. Saccardi, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Tutto questo, questa è una procedura che era vietata fino a poco tempo fa dalla legge 40, no? Sì, era vietata fino a poco tempo fa dalla legge 40 e fino ad oggi si poteva effettuare soltanto a costi molto alti presso alcune strutture private. Per la prima volta in Italia tutto questo viene fatto invece in una struttura pubblica con il solo pagamento del ticket. Ed è una tecnica naturalmente che è finalizzata non certamente a scegliere caratteristiche genetiche del nascituro, ma ad evitare, a verificare, diciamo, la presenza di eventuali patologie ereditarie prima dell'impianto in utero. Sì, nella fattispecie il partner maschile aveva una malattia rara. Una malattia rara che colpisce la vista e che è caratterizzata dalla formazione incompleta dell'iride. Ed è una malattia a trasmissione autosomica dominante, quindi sì, a trasmissione ereditaria, diciamo. Sì, e la verifica è stata fatta, la biopsia su 3 embrioni per identificare la presenza appunto di patologie ereditarie di questo tipo, in sostanza, che non ci fosse questa aniridia congenita, no? Esattamente, diciamo sostanzialmente con questa tecnica si fa una sorta di verifica non necessariamente con l'amniocentesi, ma è una sorta di amniocentesi anticipata, non viene eseguita sul feto, ma viene eseguita appunto sull'embrione. È stata fatta grazie a una collaborazione tra due strutture pubbliche nostre, cioè la struttura di PMA dell'ospedale Santa Margherita di Cortona e il laboratorio di genetica medica dell'azienda ospedaliera universitaria di Siena. E credo che sia, insomma, un passo avanti molto importante che il servizio pubblico della Toscana, la sanità pubblica della Toscana, che già è abbastanza avanti sul tema della PMA, ha fatto appunto per evitare problematiche molto molto gravi, quindi la trasmissione, per verificare la trasmissione di malattie genetiche o di alterazioni cromosomiche o strutturali in embrioni generati in vitro da coppie a elevato rischio riproduttivo. La ringrazio, grazie a Stefania Saccardi, grazie, assessore alla sanità della Regione Toscana, e grazie ovviamente al mitico Alessandro Longoni in redazione che ce l'ha rintracciata al volo, una di quelle cose che peschiamo, insomma, molto molto rapidamente. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, come sempre nella seconda parte della trasmissione parleremo con Stefania Giannuzzi, assessore della Giunta Appennino di Torino alle politiche per l'ambiente, su questa cosa contenuta nel programma che dice il Comune di Torino si impegna alla promozione della dieta vegetariana e vegana. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, i nostri titoli. Le sanzioni a chi sconsiglia i vaccini, si può arrivare fino alla radiazione, l'annuncio arriva dalla Federazione degli Ordini dei Medici. Alcuni procedimenti, anzi un procedimento, ci ha raccontato il segretario della Federazione, è già in corso a Firenze. In Turchia la morsa della repressione dopo il tentato golpe, divieto di espatrio per i professori universitari, chiuse radio e televisioni sospettate di essere vicine a Gulen. Giro di fatture false, in manette l'immobiliarista Stefano Ricucci fu protagonista delle tentate scalate ad Antonveneta ed RCS. Ci sono stati 2 arresti per gli attentati alle chiese nel Fermano, si tratterebbe di ultra della squadra locale, forse con simpatie anarchiche. La rabbia è legittima ma non degeneri in odio, dice il presidente francese Hollande sul terrorismo. Tra poco partiranno le salme degli italiani morti a Nizza, Mattarella le accoglierà. La borsa. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, iniziando però da una notizia battuta da poco dalle agenzie. Un uomo di 28 anni ha sparato un colpo di pistola in un parco pubblico di Ravenna, aveva altri 4 proiettili nell'arma, è stato arrestato e gli atti sono andati all'antiterrorismo. L'uomo di nazionalità albanese era di fede musulmana, frequentatore di una moschea, nelle pareti della camera dove vive sono state trovate scritte in albanese come Allah è grande. Vedremo come evolverà questa vicenda, intanto ci occupiamo di Torino. È là che mettiamo il nostro prossimo punto sulla mappa, mappa che trovate sul sito www.radio24.it. E siamo con Stefania Giannuzzi, assessore alle politiche per l'ambiente della giunta appena nata 5 Stelle. Giannuzzi, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti. Allora, fate un po' discutere il fatto che nel vostro programma, tra le tante cose che ci sono, perché diciamo non è che le politiche per l'ambiente si esauriscono in questo, però ha fatto molto discutere questa scelta di inserire la promozione del vegetarianesimo e del veganesimo. Ce la spiega un po'? Allora, sì, la scelta di inserire il punto sulla promozione della dieta vegetariana e vegana si inserisce in un contesto più ampio che riguarda la promozione della cultura ambientale, che quindi ha l'obiettivo di promuovere stili di vita più sostenibili, e quindi vogliamo sensibilizzare i cittadini, ad esempio, a utilizzare mezzi di trasporto più ambientalmente sostenibili, anche riguardo alla raccolta differenziata. Insomma, abbiamo in mente di fare delle azioni che coinvolgono la cittadinanza per aumentare la raccolta differenziata, e tra le altre cose abbiamo anche in mente di fare degli eventi, appunto, di promozione. C'è da dire una cosa, che Torino da anni è una città all'avanguardia da questo punto di vista, perché è la città con più locali veg, intesi come vegetariani e vegani. Lei tra l'altro è vegetariana, no? O mi da sbaglio? 20 anni, sì. Da 20 anni. Senta una cosa, in cosa consisteranno questi eventi di promozione? Che cosa farete concretamente? Immagino che abbia già qualche idea di questo tipo. Io sì, ho delle idee, però diciamo che la cosa fondamentale è quella di lavorare insieme alle associazioni. Quindi io vorrei che non siano delle scelte dettate da questa amministrazione, ma che siano delle scelte condivise, così come lo sono state già all'interno della stesura del programma, perché ricordo che questo programma è stato scritto già insieme alle associazioni, sì, ambientaliste, animaliste, da cittadini, quindi in realtà tutto quello che è scritto è stato già condiviso precedentemente. Mm. Quindi vogliamo continuare così, vogliamo continuare con l'ascolto, vogliamo continuare con la partecipazione dei cittadini, e anche nella scelta degli eventi che desideriamo portare avanti sicuramente sarà data priorità alle associazioni che vogliono proporre delle idee. Sì. Comunque, sa che già, Giannuzzi, c'è già qualcuno che dice, insomma, il comune vuole inserirsi nel mio piatto, influire sulle mie scelte personali. Assolutamente no. Che sia chiaro che nessuno vuole imporre niente a nessuno. Sono solo delle azioni di promozione, come dicevo prima, che da una parte appunto derivano dalla realtà particolare che ha Torino, questo punto di vista, e dall'altra diciamo si inserisce più in un discorso che riguarda le comunità internazionali, cioè già la FAO, già l'ONU, dopo l'accordo sul clima di Parigi, parla di sensibilizzare comunque i governi a fare delle scelte politiche in questo senso. Quindi diciamo che sono anche Slow Food, ad esempio, parla di... Ma perché? Perché in sostanza, la faccio semplice, mi scusi, perché la carne inquina di più, questa è la sostanza? Esatto. Sì, diciamo che l'impatto ambientale dell'industria intensiva, però, degli allevamenti intensivi, ha un impatto notevole, che è maggiore anche rispetto a quelli dei trasporti. Quindi fare un discorso sull'ambiente senza prendere in considerazione anche... È vero, Giannuzzi, mi scusi, è vero anche che c'è carne e carne. Esatto, no? Esatto. Nel senso che, per esempio, se sull'impatto ambientale della carne rossa le cose sono note, esatto, l'impatto, per esempio, ambientale della carne di pollo è inferiore a quello della frutta. Ma io sì, in ogni caso appunto quello che ci tenevo a dire è che noi non abbiamo in previsione di fare delle azioni che obbligano la cittadinanza a delle scelte, e che questo punto si inserisce in un discorso più ampio di promozione della cultura ambientale, come dicevo prima. Quindi assolutamente questo è il livello. Sì. Senta una cosa, mi scusi Giannuzzi, le voglio chiedere questo. Allora, perché anche la promozione di una dieta vegan oltre a quella vegetariana? Questo non mi è molto chiaro, e qualche ascoltatore ce lo chiede, insomma. Ma perché entrambi possono appunto contribuire, come dicevo prima, a diminuire l'impatto ambientale dell'industria alimentare, tutte e due, ovviamente. Comunque ci tengo a dire che queste, no, perché è un po' più estrema, lo ricordiamo agli ascoltatori, sì, che pure, come dire, da questa radio sono molto ben informati su tutta la vicenda, sì, soprattutto con quello che è successo, quello che è andato in onda alla Zanzara, che ben conoscono, i vegani sostanzialmente non bevono nemmeno latte, tanto per dire, o latticini, qualsiasi, sì, prodotto di derivazione animale, per così dire, no? Certo, sì, sì, sì. Ma io le ripeto, può essere innovativo forse sul panorama italiano, ma in realtà ci sono molte città europee che da anni fanno promozione sulla cultura vegana e vegetariana. Parliamo di Barcellona, parliamo del Belgio, ci sono molte città in Belgio che portano avanti e hanno fatto anche un brand a livello cittadino. Parigi ha fatto un distretto addirittura con tutta una cartina in cui sono segnati i locali vegani, vegetariani, o che comunque portano avanti una cultura di questo tipo. Quindi voglio dire, ultima domanda, assessore, quanto investirete in quest'opera di promozione? Ma adesso dobbiamo è tutto da fare, noi ci siamo insediati 2 settimane fa e quindi con calma vedremo quali sono le priorità. Diciamo che adesso la priorità dal punto di vista ambientale è quella di garantire la salute dei cittadini dal punto di vista del miglioramento della qualità dell'aria. Sì. Quindi noi adesso ci concentreremo più che altro su questo e poi più avanti imposteremo il lavoro che ovviamente durerà 5 anni, quindi diciamo questa non è una priorità. Non è una priorità, diciamo è inserita nel programma. Va bene, allora facciamo così, assessore, magari ci risentiremo nel momento nel quale avrete un po' di chiarezza sulle risorse e su questo tipo di promozione che avete intenzione di fare. Io intanto la ringrazio e ci spostiamo sul litorale romano. Prossimo punto sulla mappa è Nettuno, appunto sul litorale romano. Siamo in linea con Angelo Casto, che è il sindaco. Buongiorno sindaco, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, con lei vogliamo tornare sul tema della gestione degli immigrati. Tanto ne abbiamo parlato nelle scorse ore, ci siamo tornati anche nella prima parte della trasmissione, perché la nostra impressione è che, come dire, la gestione che c'è in questo momento, probabilmente tanto a livello centrale quanto a livello di prefetti, non stia funzionando alla perfezione. Mi sembra di aver capito che avete avuto qualche problema anche voi, no, sindaco? Un luogo nel quale si sono ammassate 150 persone nella zona artigianale, una zona, e la segnalazione ci è arrivata anche da un ascoltatore, a dir la verità, insomma, abbastanza pericolosa, con marciapiedi stretti, edificio fatiscente e via dicendo. Dunque, per quanto riguarda questo CAS, sostanzialmente un centro di accoglienza straordinario che si va ad aggiungere ad un CARA, è un altro CAS, sempre a Nettuno, mentre ce ne stanno 2 anche ad Anzio, ma diciamo la competenza mia finisce sulla zona, sul territorio di Nettuno. Nella zona Tre Cancelli, appunto, che è una zona nella parte artigiana, io quello che ho potuto fare, intanto diciamo ho chiesto alla prefettura, e questo è avvenuto nell'immediatezza dei fatti, insomma, sì, entro una giornata, sono scesi a 121, attualmente sono 121 da 150, quindi la struttura ne consentirebbe 120, quindi ce n'è uno in più rispetto, sì, a quello che quindi, era. Quindi non è, diciamo così, non è un problema. Mi risulta. No, sì. Io ho, diciamo, siccome per quanto riguarda la parte mia, è evidente che diciamo la politica nazionale ha delle ricadute sulle politiche territoriali in questo, sì, caso, no? Sì. Anche perché, voglio dire, quelle sono logiche che riguardano appunto il governo e la prefettura in questo caso, come ufficio territoriale del governo che ha ricadute nella zona. Io per quello che è la competenza diciamo del sindaco, quindi la competenza comunale, ho attivato intanto la mattina stesso, dopo che la notte questi erano arrivati, sono andato a fare una visita di cortesia, sì, sì, in maniera tale da accertare. E che situazione ha trovato? Guarda, io ho trovato una situazione, io naturalmente non sono un ingegnere, quindi non ho potuto verificare. Vabbè, insomma, la staticità dell'edificio, sì, però insomma, diciamo, però, un'idea se la sarà fatta, insomma. Però per esempio ho visto che l'infermeria era un metro e mezzo per 2,5, quindi credo che è come se fosse quasi in un sottoscala, diciamo. Non credo, cioè così a mia impressione, quindi da cittadino Guardi, sindaco, mi scusi, sì. Allora siamo quasi in chiusura. Solo una domanda: c'è stato anche un episodio, a quel che ho capito, una bomba carta lanciata contro questo centro? Sì, c'è stata una bomba carta sulla quale penso che stiano indagando le forze dell'ordine, che naturalmente testimonia, una sorta di di respingimento di una parte, però, di una parte della popolazione, non tutta evidentemente. Allora io la ringrazio, grazie sindaco per essere stato con noi, per aver accettato il nostro invito, e grazie a Marco che da Nettuno ci ha segnalato a effettogiorno@radio24.it questa situazione. Se ne avete altre, scriveteci, naturalmente l'email la sapete, traffico platero. Ci risentiamo per i saluti.